io posso parlare questo momento perché è una di quelle poche cose tecniche che conosco, e quindi in questa cosa qua posso dirti che questo mais è prodotto senza irrigazione. Tutto il mais che produciamo proprio non viene irrigato, perciò il consumo è nullo, se non no, rispondi. No, io dico, il mais da polenta, a meno che coltivo io e credo che anche loro, ha bisogno di un fotoperiodo positivo, vuol dire che produce se seminato quando cresce la giornata, cioè a maggio praticamente, perché già dopo a fine primi di giugno e assolutamente dopo la metà di giugno non va in produzione. Questa è un'esperienza che ho provato con la pelle, che avevo seminato su un secondo raccolto del mais, e quindi va incontro praticamente a un periodo di generalmente di piovosità, cioè parte già in una stagione buona, e poi è un ciclo breve tra le altre cose, normalmente, non so il vostro, ma è un 90 giorni, cioè vuol dire che matura velocemente, quindi a un certo punto, quando gli altri mais devono essere bagnati tanto, questo ha già finito il suo ciclo e quindi non ha più bisogno, quindi in realtà non ha delle grandi esigenze. Ecco, poi adesso forse Sandro ci può parlare di tutta la problematica, perché noi siamo sul Ticino, c'è il Lago Maggiore che chiude i canali irrigui perché vogliono tenere alto il lago per il turismo e tutte queste storie qua. Però noi abbiamo il problema che non ci mollano l'acqua perché vogliono tenere alto il lago, è più importante il turismo dell'agricoltura, e quindi tante volte questa roba cozza un po'.